La direttiva è stata approvata nel 2014 e dava tempo fino ad aprile del 2016 agli Stati membri di fare una normativa per recepire, no? Le direttive danno dei principi generali e gli Stati poi devono fare delle normative interne in cui vengono recepiti questi principi. Il tempo massimo appunto era aprile del 2016 e l'Italia è stata molto in ritardo. Quando si arriva molto in ritardo rispetto ai tempi indicati alla direttiva si rischiano delle procedure di infrazione. La procedura di infrazione per adesso non c'è stata, in realtà formalmente c'è stato il decreto attuativo, il decreto di recepimento dei principi della direttiva, ed è il decreto legislativo 15 marzo 2017 numero 35, quindi vuol dire che sostanzialmente sono arrivati con un ritardo di 10-11 mesi nel recepimento della direttiva. Qual è il problema? Che questo decreto non è così coraggioso, è stato abbastanza cauto nel recepire i principi della direttiva e quindi qualcuno ha segnalato che si poteva fare di più, si poteva recepire la direttiva in modo più coraggioso e più determinante, accogliendone anche alcuni spunti. Cioè la direttiva in quanto direttiva non va sempre nel dettaglio, però lancia degli spunti abbastanza chiari su come dovrebbe essere il quadro normativo dei 28 paesi dell'Unione Europea. L'Italia è stata molto invece conservatrice nell'approccio. Quali sono i punti in cui questo decreto è particolarmente timido? È il solito discorso del monopolio, nel senso che noi abbiamo questa norma, che è l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore, la legge 633 del 41, che è la nostra legge sul diritto d'autore, che ha queste tre paroline magiche che sono in via esclusiva, cioè grazie alle quali appunto intermediazione dei diritti d'autore in Italia può essere fatta solo e unicamente dalla SIAE, perché appunto ha questo ruolo esclusivo. Basterebbe togliere queste magiche, queste tre paroline da questo articolo. Tutti si aspettavano che, insomma, visto il tono della direttiva, anche se la direttiva non diceva espressamente agli Stati membri di rimuovere situazioni di monopolio, tutti si aspettavano che di fatto gli Stati membri si sarebbero indirizzati in quella direzione. Quindi è successo invece che poi Franceschini, in una nota conferenza stampa in cui insomma c'era stato anche un po' un dibattito acceso, anche un po' di critiche molto forti, aveva fatto tutto un discorso sul fatto che il monopolio sarebbe, per la situazione italiana, sarebbe invece la situazione più ideale, più congeniale, quando invece altri avevano subito segnalato sue interviste di pochissimi anni fa, quando lui non era ancora ministro, in cui invece si era espresso a favore della liberalizzazione. Quindi insomma c'è stato anche un discorso, come dire, etico e politico, no? Di come una persona possa cambiare idea nel giro di 2 o 3 anni solamente perché adesso è diventato ministro e deve, come dire, rispondere ad una serie di interessi che non sono solo quelli idealistici e culturali. Poi è emerso tutto il dibattito di Fedez, Gigi D'Alessio, con le nuove prospettive legate a Soundriff ed altri operatori che fanno di fatto concorrenza alla SIAE, e quindi un po' il dibattito è ancora bello in fermento e acceso. A proposito di Fedez, oggi è uscita questa notizia che riguarda un decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano nei confronti dell'organizzatore di un concerto di Fedez che ha pagato la SIAE e non Soundriff, che invece è l'agenzia appunto cui si rivolge Fedez. È stato condannato a versare i diritti d'autore a Soundriff. Questo, come dire, crea un precedente? Il precedente non è da poco, adesso vediamo cosa succede, però effettivamente va a toccare un punto molto molto dolente, cioè atteso che forse ormai è acquisito il concetto, il principio per cui ogni autore può scegliere di iscriversi alla società che più gli, diciamo, lo aggrada come servizi, come geografica, come posizione geografica, cioè l'autore, il Fedez della situazione può iscriversi a Soundriff, ma può iscriversi anche alla GEMA, che è quella tedesca, o alla Boom Stemra, che è quella olandese, e via dicendo, perché siamo comunque sul territorio dei 28 paesi dell'Unione Europea e c'è comunque un principio generale di libera, come dire, circolazione dei servizi. Atteso quello, però il problema è dall'altro lato, cioè quando sono gli utilizzatori a dover versare dei proventi per l'utilizzo di opere dell'ingegno. In quel caso in Italia l'unico ente attrezzato per fare un lavoro di controllo e di raccolta puntigliosa su tutto il territorio nazionale attualmente è ancora solamente SIAE. Quale altro ente ha uffici in tutte le province, in tutti i vari paeselli, che con mandatari e soggetti addetti ad andare a controllare e raccogliere la documentazione, raccogliere i proventi? Per adesso è ancora SIAE. Perché? Perché siamo ancora rimasti legati ad un approccio molto, passatemi la parola, molto burocratese, no? Quindi SIAE ha ancora questo approccio molto pre-digitale, per cui si fa ancora tutto abbastanza secondo metodi classici, vai, depositi il modulo. Adesso stanno cercando col nuovo sito, con la nuova dirigenza, effettivamente di innovare un po'. Il nuovo sito è molto bello, ci sono un po' di servizi online, però comunque si pone sempre il problema che la raccolta dei diritti viene fatta quasi sempre da loro ancora. In questo caso Soundriff ha fatto notare, ed è andato di fronte al tribunale, che insomma se i soldi devono arrivare a loro, l'utilizzatore deve versarli a loro, non versarli a SIAE e sperare che poi SIAE faccia un giro cioè se allunghi il giro delle transazioni economiche per far arrivare i soldi all'autore che invece è scritto ad un'altra società. E quindi adesso voglio proprio vedere, perché è vero che è un decreto ingiuntivo di un tribunale, quindi un provvedimento di primo grado, non si può dire che faccia giurisprudenza, bisogna vedere se poi vanno in appello, se c'è qualche altro tipo di richiesta dalla controparte, però effettivamente è interessante, voglio proprio vedere cosa succede. In una situazione dove il monopolio non è stato rimosso, però nascono società, operatori come Soundreef e altri, al barbiere che nel suo negozio mette su la radio e paga i diritti d'autore o mette su un CD, insomma, può essere che siano diversi soggetti che gli vanno a chiedere il pagamento di questi diritti? Problema, capisci? Nel senso che effettivamente più si lascia aperto il mercato, più effettivamente, cioè, da un lato si crea un pluralismo, no? Dall'altro si crea un po' più di confusione, perché se non c'è un ente che invece si occupa di raccogliere e poi distribuire a questi enti di intermediazione, si pone il problema. Io nel mio libro avevo proposto questa cosa, ma anche un altro collega, Riccio, aveva proposto la stessa soluzione, cioè avere un ente che faccia solo l'attività di controllo e poi che questo ente poi faccia riferimento a degli enti a cui sono iscritti gli autori, e così c'è una situazione un pochettino più paritaria. Qua invece è squilibrata, perché c'è un ente che ha tutta una rete di uffici e di mandatari, l'unico attrezzato per fare l'attività di controllo e di raccolta, però è anche un soggetto interessato, e quindi ovviamente fa un suo gioco, e quindi se non ci sono delle regole chiare si pone una situazione abbastanza confusa. Ma questa situazione confusa abbiamo già vissuta qualche anno fa, quando è stata liberalizzata la gestione dei diritti connessi, sono i diritti degli interpreti e dei produttori discografici, quindi non hanno a che fare con gli autori in senso proprio, ma con gli altri soggetti che partecipano alla produzione di opere musicali, no? E anche in quel caso lì, essendo liberalizzato da un po' di anni, effettivamente è successo in alcune situazioni che nel centro commerciale o nel negozio siano andati a chiedere resoconto dei diritti dovuti a diritti connessi, attribuiti a diritti connessi, questi vari enti che sono SCF ad esempio, che è quella dei discografici, It's Right, che si occupa dei diritti degli artisti, interpreti e esecutori. Quindi la situazione effettivamente è complessa, però la normativa italiana dovrebbe cominciare a muoversi nell'ottica della semplificazione, perché se dobbiamo invece continuare a complicare la situazione non andiamo da nessuna parte.